24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ti prego, aiutami, aiutami a chiedere il ritiro delle truppe, aiutami a salvarmi. A quel punto ho sentito una voce e mi diceva: sono Nicola, non temere, sono Nicola, sono amico di Gabriele, di Pier, sono venuta a prenderti, adesso sei libera. Mancano 700 metri, poi ci siamo. Lui aveva appena detto così quando ci ha colpito la prima raffica. Ci stanno sparando addosso. Io dicevo, ma chi ci sta sparando addosso? E lui si è buttato sopra di me, evidentemente per proteggermi. E a un certo punto c'era l'autista davanti che continuava a urlare: siamo italiani, siamo dell'ambasciata italiana, così per cercare di farsi sentire, di fermare chi sparava. E Nicola, che prima parlava, mi raccontava un sacco di cose, a quel punto non ha parlato più. L'ultima sera, quando dovevamo prendere una certa decisione, eravamo incerti, dubbiosi, angosciati, e io ripetetti a lui quello che tante volte gli avevo detto: Nicola, parla tu, perché tu mi dai fiducia e sicurezza. Era proprio così, dava fiducia e sicurezza. Era Gianni Letta che parlava di Nicola Caripari e Giuliana Sgrena, la giornalista del Manifesto, rapita in Iraq il 4 febbraio del 2004, tenuta prigioniera per un mese. Ed è proprio il 4 marzo quando l'agente dei servizi segreti Nicola Caripari raggiunge la giornalista, e negli ultimi 700 metri di strada che li divide dall'aeroporto e quindi dalla salvezza, una pioggia di proiettili si abbatte sull'auto dove c'erano la Sgrena stessa, il maggiore Andrea Carpani e alla guida e Nicola Caripari, che morirà. C'è stata ieri una presentazione del libro di Gabriele Polo, Il mese più lungo, un'occasione importante per parlare di un libro, appunto, che racconta come l'incontro tra persone e uomini in carne e ossa può aiutare a superare le distanze enormi che l'ideologia fa sembrare incolmabili, come quella di Caripari e di Polo, direttore del Manifesto. Quella di Caripari è una storia che, per la sua drammatica conclusione e per l'ambiguità del processo che è seguito nel tentativo di identificare le responsabilità, ha visto contrapposti in modo chiaro e netto i punti di vista degli italiani e degli americani sulla ricostruzione della dinamica dei fatti, della loro responsabilità e sul modo di affrontare i sequestri di persona. Ma ha visto anche, appunto, incontrarsi culture distantissime come quella comunista e quella istituzionale attraverso due uomini privi di cinismo, come dice Rosa Calipari nella prefazione del libro, che amano il loro lavoro e che ne hanno fatto una ragione di vita. Ecco, sentiamo il racconto di quell'ultimo drammatico giorno che ha portato alla morte dell'agente segreto Nicola Calipari. Nicola Caripari è una persona in cui mi sono fidato ciecamente, perché sono quelle cose un po' anche di pelle che uno percepisce. Ho immaginato da subito, se qualcuno poteva liberarlo, l'avrebbe liberata lui. Nicola Caripari è riuscito a stabilire subito un contatto con i rapitori e a rendersene conto è la stessa Giuliana Sgrena. Loro erano stati in grado in breve tempo di stabilire un contatto con i miei rapitori. Questo dimostra che c'era una conoscenza del terreno buona, molto buona. Lui è partito, ci siamo sentiti telefonicamente ogni giorno fino a giovedì 3 marzo. Nicola mi ha detto: mi manca solo un particolare e poi chiudo. È il 4 marzo 2005. All'aeroporto di Baghdad atterra un aereo del SISMI con a bordo Nicola Caripari e alcuni suoi collaboratori. Improvvisamente entrano tutti e due i miei guardiani. Uno mi dice: complimenti, te ne vai. E mi stringe la mano. Io dico: come me ne vado? I liberatori ce l'hanno fatta, ma si trovano in un punto sconosciuto di Baghdad. Piove a Baghdad. Una pioggia fredda con nuvole basse e foschie che sconsiglia addirittura l'uso degli elicotteri. John Negroponte, ambasciatore americano in Iraq, la sera è invitato a cena a Camp Victory e lo spostamento è organizzato in automobile. È per questo che la compagnia A del 69esimo reggimento, comandata dal capitano Michael Drew, è incaricata di pattugliare la Route Irish e di istituire blocchi ai checkpoint. Dopo pochi minuti è arrivata una telefonata di conferma di questa notizia direttamente da Gianni Letta, dicendo è libera, sta viaggiando verso l'aeroporto. Ci stanno sparando addosso. Io dicevo, ma chi ci sta sparando addosso? I cavalcavia, come il checkpoint 541, sono particolarmente esposti ad attacchi. Offrono infatti ottima visibilità in tutte le direzioni, facili vie di fuga e la possibilità di accedere ad alta velocità alla Route Irish. Il 4 marzo il compito per la pattuglia è di evitare che qualsiasi veicolo si metta sulla Route Irish in concomitanza col passaggio del corteo di Negroponte. La pattuglia è composta da 2 veicoli e 7 uomini. A comandarla è il luogotenente Nicolas Acosta. I 2 mezzi anfibi vengono così disposti. Il primo, quello di blocco, all'altezza della seconda delle 3 barriere di cemento presenti sulla rampa, ha il muso rivolto verso la Route Irish. L'altro, quello di copertura, si posiziona all'altezza della 3ª barriera Jersey, sempre rivolto verso la Route Irish. Acosta stabilisce anche che la posizione della linea di allerta coincide con la spalletta di separazione tra la rampa e il cavalcavia, mentre la linea di avvertimento coincide con il secondo palo della luce posto sopra al cavalcavia. Ebbene, il BP-541 è allestito in maniera completamente diversa dalle procedure operative statunitensi, ovvero è un posto di blocco illegale. La mancanza di qualunque segnale rende impossibile per le vetture rendersi conto del posto di blocco che si trova dopo una rampa in salita e dietro una curva. Praticamente per una macchina in arrivo, il posto di blocco è indistinguibile. Il mitragliere del veicolo di blocco è Mario Lozano, newyorkese ispanico del Bronx. 35 anni, divorziato, 2 figlie. Nella vita civile ripara condizionatori. Secondo le istruzioni che vengono date ai soldati americani che effettuano questo posto di blocco, il mitragliere tiene con la mano sinistra un faro molto potente che deve indirizzare sul parabrezza dell'autovettura, in modo da far vedere e far capire, possibilmente al conducente che sta arrivando, che c'è un posto di blocco. Un suo collega al tempo stesso dovrebbe indirizzare sempre sul parabrezza un fascio luminoso di un laser. Qualora l'autovettura non si fermi, il mitragliere deve appoggiare il faro sull'autoblindo, imbracciare la mitragliatrice, sparare dei colpi al lato dell'autovettura per far vedere al conducente attraverso i proiettili traccianti che vi è un posto di blocco armato e che sta per sparare. Se l'autovettura non si ferma ancora, il mitragliere deve riposizionare la mitragliatrice, mirare verso il motore dell'autovettura, sparare. Soltanto successivamente il mitragliere è autorizzato a sparare direttamente nel veicolo, nell'abitacolo, per fermare definitivamente l'autovettura. Dalla spalletta allo stop, la Toyota impiega 4 secondi e 62 se la velocità della macchina è di 80 km orari, come dichiarano i soldati americani, oppure impiega 6 secondi e 18 se la velocità è di 50 km orari, come dichiarano i testimoni italiani. Le testimonianze dei soldati americani sono a volte contraddittorie, mentre le testimonianze dei 2 testimoni italiani sono sicuramente molto più omogenee. Mario Lozano, dal tetto dell'Anvi, esplode i primi colpi da una distanza tra i 100 e i 130 metri, dopo che la vettura supera la spalletta. Gli ultimi da una distanza tra i 45 e i 65 metri, quando la vettura è ormai ferma. Per la perizia ha sparato soltanto un'arma. La prima raffica colpisce il veicolo mentre procede a una velocità di 60-65 km orari. Un proiettile raggiunge la portiera anteriore destra e si ferma. Un altro penetra nel parafango anteriore destro e raggiunge il bauletto portaoggetti. La seconda raffica colpisce il veicolo a una velocità di 44-54 km orari. 2 proiettili trapassano il parabrezza. Il primo causa la rottura del vetro dello sportello anteriore sinistro, mentre il secondo raggiunge la testa di Nicola Calipari, causandone la morte, e ferisce Giuliana Sgrena alla spalla. Gli ultimi colpi raggiungono l'auto quando ormai è praticamente ferma. Un proiettile penetra nel fanale anteriore destro e raggiunge il motore. Un altro colpisce la portiera anteriore destra e ferisce Calipari alla caviglia. Un altro penetra nel paraurti e fura la ruota di sinistra. La perizia conclude che esplodere numerosi colpi di mitragliatrice all'indirizzo dell'abitacolo dell'autovettura è da giudicare indubbiamente condotta idonea e diretta a cagionare la morte degli occupanti. Sono arrivati questi militari, hanno aperto la porta, hanno sollevato Nicola e hanno detto shit. Al soldato Lozano oggi sarà stata data una nuova identità, probabilmente anche un nuovo volto, e di sicuro gli daranno uno stipendio per tutta la vita. Un pensiero particolare, affettuoso, va alla squadra di Nicola, ai calipariani, come qualcuno all'interno del servizio li definisce, forse per volerne differenziare lo stile umano e di lavoro. Un omaggio migliore che potrà essere reso alla memoria di mio marito sarà costituito dall'accertamento della verità sulle cause della sua morte. Ecco, Rosa Calipari, sono passati 10 anni, verità e giustizia dove sono rimaste? Ferme al giugno 2008, quando la Cassazione disse che la giurisdizione non era italiana. Non fu possibile più alcuna ipotesi di poter iniziare un processo. Io non posso dimenticare gli occhi di mio figlio quando passò su Sky la notizia della sentenza della Cassazione. Quel ragazzino mi chiese: che vuol dire mamma? È finita? Abbiamo perso? E io risposi: sì, ma noi non abbiamo perso. Papà rimane quello che è. Dopo la sentenza della Cassazione ci fu WikiLeaks, qualcuno forse lo ricorderà, e uscirono le notizie delle pressioni che erano state fatte presso il nostro ambasciatore a Washington circa la fine di quel processo. Ma è iniziato fondamentalmente, perché il processo è stato soltanto per la parte tecnica. Quindi non abbiamo mai sentito un testimone, qualunque esso sia, neanche le rogatorie, non è stato possibile neanche la videoconferenza, ci è stato rifiutato tutto. Gabriele Polo, ex direttore del Manifesto, autore del libro Il mese più lungo, ecco, pensi che il comportamento americano rispetto al processo sia stato ambiguo e sospetto perché la sgrena, perché era stato pagato il riscatto della sgrena? Beh, sicuramente è stato pagato anche una cifra, probabilmente 12 milioni di dollari, questa è la cifra che si dice sia stata pagata. Ecco, ma tu pensi che il comportamento americano sia anche figlio di questo pagamento, che loro erano contrari, insomma? Beh, loro erano assolutamente contrari, certo, l'hanno detto fino all'inizio, hanno tenuto sempre questo punto di vista, anche se informalmente loro a volte trattano, fanno trattare altri per conto loro, certo. Però sicuramente erano contrari a questa trattativa. Ecco, ma secondo te i riscatti vanno pagati oppure no? Secondo me sì, vanno pagati, naturalmente andrebbero create le condizioni per cui i rapimenti non ci fossero, cercare di trattare con il nemico non soltanto in termini monetari ma in termini politici, quindi trovare delle soluzioni più ampie, ma quando una persona è sequestrata. E c'è un dramma di questo genere va pagato. Cioè la persona, il salvataggio della persona viene prima. Ecco, Gabriele Polo, il libro è un bellissimo racconto che fa scoprire pagina dopo pagina come cadono i pregiudizi ideologici quando si incontrano due uomini per bene, diciamo così. Ecco, che cosa capita? Due mondi così lontani. Ci si guarda, ci si conosce, poi se scatta un meccanismo di fiducia reciproca, se si capisce che l'altro non ti sta imbrogliando ma che ognuno fa il suo mestiere per bene, se c'è un obiettivo comune ci si comincia a fidare, è quello che è successo. E quanto tempo ci hai messo per cominciare a fidarti di Calipari? Poche ore, direi, nel senso è stata una cosa empatica all'inizio, è stato un affidarsi a lui, perché capivo che era una persona molto preparata e per bene. Poi man mano che passavano i giorni c'è stata anche una fiducia più profonda. Legata a un'ammirazione e anche un reciproco scambio di conoscenze, ecco, e di punti di vista. Ti ha cambiato la vita l'incontro con Calipari in qualche modo? Sì, certo che mi ha cambiato, mi ha insegnato ad ascoltare di più i diversi punti di vista e a rispettare più le persone, anche magari molto diverse da me, però che hanno un atteggiamento corretto. Ecco, Gabriele Polo, quella del processo per la morte di Calipari, secondo te è un processo che in realtà non c'è mai stato, semplicemente la verità dei più forti? Sì, la verità dei più forti, semplicemente l'impossibilità di avere giustizia quando prevale la ragione della forza. L'Italia poteva fare con l'India per i Marò lo stesso che quello che hanno fatto gli americani per il fuciliere Lozano, che è quello che ha sparato materialmente, cioè se l'è tenuto, non l'ha mai fatto interrogare e non l'ha mai riconsegnato. Beh, in teoria sì, se quella legge della cosiddetta legge dello zaino, la non giurisdizione per i soldati, insomma, dello Stato colpito, vale per gli americani, perché non dovrebbe valere anche per gli italiani. Insomma, e quindi l'errore è stato quello di non applicare quel tipo di atteggiamento analogo? No, io penso che l'errore sia quel tipo di legge, però se vale per gli americani deve valere anche per gli italiani. Mm. Senti Polo, Gabriele, il tuo libro e la tua storia però ci insegnano anche che è l'ideologia in qualche modo che impedisce la comunicazione tra gli esseri umani, perché è un a priori, è così? L'ideologia quando diventa una cosa bloccata, sclerotizzata, sì, complica molto il rapporto tra le persone, però l'ideologia, se è fatta di idee che si confrontano con la realtà, può essere anche una grande risorsa, se è una visione del mondo. L'importante è che queste visioni del mondo si confrontino e sappiano parlarsi, questo è il succo della democrazia. Si conservi la voglia di confrontarsi, insomma, sì, sostanzialmente. Ecco, ma oggi tu ti senti più o meno comunista di prima? Vengo da un comunismo molto eretico e non dogmatico, quindi parto avvanteggiato e mi sento comunista come allora, anche se ho imparato a ascoltare di più. Ecco, un'ultimissima cosa, ma che cosa hai scoperto in Calipari che non sapevi? Che anche lo Stato, il governo e il potere sono tre cose diverse, e che ci sono molte persone per bene anche dove non pensiamo che non ci siano. 800 24 00 24, 349 il numero verde naturalmente, 349 238 6666, gli sms. Approfitto intanto per ringraziare i nostri ascoltatori, perché abbiamo avuto i risultati degli ascolti. Gli ascolti sono in crescita in un momento difficile, quindi vuol dire che in qualche modo un piccolo servizio riusciamo a farlo. Vi ringraziamo tutti, vi ringraziamo. Mario, secondo te si devono pagare o no i riscatti? No. No. Tu sei americano col K? No, io sono coerente, perché vengo da una terra che è stata piagata dai sequestri di persone. È vero, la Sardegna. Quindi diciamo, purtroppo per me ho una certa esperienza di queste cose. Ne ho anche trattato professionalmente, diciamo, raccontandole a qualcuno importante e così via. No, credo che non debbano essere pagati. Non hai anche dubbi perché su questo? No, i dubbi ci sono sempre, perché chi non ha dubbi è un imbecille. Sì. Però attenzione, perché allora dovremmo anche non rivedere. C'è limite. Sì, non solo, ma c'è un piccolo particolare. Tu mi devi spiegare perché allora la legge sul blocco dei beni è stata applicata ai rapiti in Italia e poi paghiamo il riscatto per quelli rapiti all'estero. Mm. Tanto per dirne una. Certo. Cioè c'è un tema di disparità mostruoso. Allora, o non si paga per tutti o si paga per tutti, ma di certo non si può pensare di pagare così molto facilmente. Però in guerra si tratta. In guerra si tratta. E lo vediamo, si trattano soldi sempre. O persone, allora, si scambiano i prigionieri. La realtà è che in guerra, come dici tu, si tratta sempre. Però io di dare soldi a dei pazzi sanguinari che poi usano questi soldi per continuare la guerra, non me la sento. Tu Pietrangelo? C'è un passaggio che bisogna fare ancora prima di arrivare a questo dibattito. Cioè l'Italia deve riguadagnare la propria sovranità e di conseguenza agire. Nella vicenda di Calipari c'è un problema enorme, che è quello di far riconoscere la propria sovranità. Tant'è vero che nella domanda che tu fai a Gabriele Polo c'è un fatto che coinvolge l'attualità di oggi, certo. E cioè l'esempio di Lozano e l'esempio dei due Marò devono per forza essere messi in parallelo, per spiegare innanzitutto a noi stessi perché mai tutto quel che va bene secondo le decisioni dell'amministrazione americana invece non possono riuscire con noi. Perché mai siamo stati così solleciti a risolvere, sacrificando un servitore delle istituzioni qual è Calipari, al Realpolitik, mentre invece non siamo in grado di aprire una discussione definitiva col governo indiano? È chiaro, l'India non riconosce la nostra sovranità. È chiarissimo, l'Italia nel mondo non ha nessun peso. Poco. Ecco, e naturalmente, come abbiamo detto con Polo, la giustizia dei più forti è una giustizia che vince. Però, facendo ancora una piccola riflessione proprio sui Marò, allora aveva ragione Terzi quando non li voleva restituire? Il ministro degli esteri, lo ricordo, che non voleva riconsegnare i due Marò che erano venuti. Ti racconto un episodio personale. Ero in riunione al giornale, dirigevo Il Tempo all'epoca, ci fu una discussione su che cosa stava succedendo con i Marò e io dissi: ma perché dobbiamo restituirli? Feci anche un paio di telefonate, come fanno tutti i direttori di giornale, no? Per capire l'aria che tira, è il caso di dire. La risposta fu: pacta sunt servanda. E io lì mi fermai e dissi: ok, ci deve essere dietro un patto. E tu l'hai visto. Però c'è anche un codice d'onore che soltanto soltanto un soldato, e a maggior ragione due soldati che vengono dalla creme del nostro esercito, non possono che rispettare, altrimenti ritorneremmo a Badoglio, perché se era stata data la parola, e la parola data da due soldati vale più di tutti, ovviamente loro sarebbero stati i primi a rifiutare qualsiasi traccheggio o qualsiasi ipotesi, quella vagheggiata da Terzi, che mi meraviglio oltretutto milita in un partito che c'è il tricolore come simbolo. Mix 24. Faccio pugni con te, poi ti vengo a cercare, benedico e ringrazio e maledico il mondo com'è. E mi domando perché ti dovrei chiamare tutte le volte che passi e ti fermi lontano, lontano da me. Sarà come sarà, sarà vero il viaggio di ritorno da Catania? Perché poco prima dell'alba il buio è più nero, e in metropolitana una scena oggi che era proprio quella di un giardino. C'erano alberi dentro i vagoni, erano messi a dimora, collocati negli spazi, e appunto sarà come sarà, sembra impossibile, e però è stato vero. Ognuno leggeva nel pensiero dell'altro, qualcuno cercava di nascondersi, e poi improvvise piogge facevano uscire allo scoperto chi non voleva farsi leggere dentro, e allora si inciampava. Sono come mi hai voluto tu, ha detto il filosofo, prendere il miele e trasformarlo in pane. E l'alchimia del sarà come sarà, questo tutto poco prima dell'alba, quando il buio è più nero, come in questa canzone di Francesco De Gregori, dove l'amore è come il vento e quel soffio arriva nella galleria e porta uccelli nobili e bellissimi che vanno a posarsi sui corrimani in metropolitana per il tempo di una corsa che si trasforma in un giardino, dove i pensieri di tutti, trasformati in lettura, diventano canto. Francesco De Gregori, ti leggo nel pensiero. Grande Francesco De Gregori. Allora Mario, le tue bolle dove ci portano oggi? Lontano. Lontanissimo. A desert road from Vegas to nowhere, some place better than where you've been. Grande pezzo. Baghdad Caffè. Andiamo là. Andiamo a Baghdad. Andiamo a Baghdad, Iraq. E facciamo una piccola discussione tra noi su questo. È una scia di una lunga guerra. È la guerra in Siria, in Iraq, in Libia. E in attesa di capire che cosa si decide per la Libia, che però nessuno di noi l'ha capito, Obama sta provando però piani di guerra per la primavera, e c'è un piano del Pentagono ufficiale a questo punto per riprendere Mosul. Mosul è una grande città, un milione di abitanti, che è ora occupata da ISIS. Saranno impegnati circa 20.000 soldati iracheni e curdi. Si tratta di una cosa un po' sorprendente, perché il Pentagono ha proprio detto che lo farà. È un piano del CENTCOM e devo dire questo è un segnale positivo, va da sé, se qualcosa di positivo può esserci nelle guerre. Mosul è molto importante, la città dove al-Baghdadi ha fatto il suo discorso, è comparso in pubblico qualche mese fa, come sapete. Naturalmente da qua poi si spera che la guerra prenda una piega diversa. Non so che cosa ne pensate voi. Ma io penso una cosa, Mario, penso che mi colpisce il fatto che a Obama abbiano dato il premio Nobel per la pace prima ancora che cominciasse quasi a fare il presidente degli Stati Uniti e tutti eravamo molto contenti. Ecco, adesso lascia dichiarandolo in eredità una guerra per i prossimi 3 anni. Minimo. E andando a rivedere la storia dei presidenti degli Stati Uniti si vede che in fine mandato quasi tutti lasciano una guerra in eredità al presidente successivo. Tu sai che c'è una battuta ferocissima. Curioso, eh? La battuta ferocissima degli americani è che i democratici cominciano le guerre e i repubblicani le finiscono. Insomma, è tremendo. Salamino! A poverini mogherini i nostri salamini. Squillino le trombe! E le trombe squillano per la nostra poverini mogherini, ma s'alzino le maiuscole, perché della mogherini si deve dire innanzitutto alto, rappresentante per la politica estera della Unione Europea. Ah, lei è l'Europa. Quando vedete, caro Giovanni, caro Mario, quando vedete come nel mito dell'Ade il toro che si porta via l'Europa, lei è Europa. Ma mogherini, poverini, cosa dice al toro? Non ho l'età, non ho l'età. Fiore e orgoglio di Matteo Renzi, veramente un capolavoro di politica. Complimenti a questo premier, perché veramente con la Mogherini ha fatto una cosa meravigliosa, perché sta poverini Mogherini non fa che ottenere riconoscimenti. Allora, il primo, Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione, nomina Michel Barnier come consulente speciale per la difesa. E già questo sarebbe stato un compito della poverini Mogherini. E comunque noi a lei diamo gli applausi. Poi, la trattativa delicatissima con l'Iran è stata affidata al predecessore della poverini. Ma dobbiamo dire, Mario, Giovanni, che già la Ashton era perfino peggio della Mogherini, quindi se hanno preso quella peggio, vabbè. Il negoziato Ucraina-Russia invece l'hanno fatto direttamente Angela Merkel e François Hollande, e non chi, non lei! Allora, sa poverini Mogherini, come segnala il Corriere, oltretutto in un angolino appartato, è di fatto commissariata. Ora, se guadagnata questo soprannome, poverini, però devo dire, io non credo di essere tacciato di filo renzismo, no? No. Però è ingiusto tutto ciò. Io un merito lo vorrei riconoscere alla poverini Mogherini, perché ieri mimetizzata la poverini Mogherini si è alzata in volo sul cielo di Roma, è arrivata su Piazza di Spagna e da lì dolcissima come non mai ha placato gli animi dei tifosi, perché quelli saranno stati olandesini, ma la vera olandesina è lei. Mira l'olandesina, è fuori di testa, ma è perfetta. Cosa ha fumato oggi, cosa hai bevuto, ci chiederanno i nostri ascoltatori, che ce lo chiedono spesso perché ti invidiano. Oggi una piccola notizia vorrei darla io. Fino al 7 marzo inizia una campagna di raccolta fondi per la comunità di San Patrignano. Se non ci fosse, io non ci sarei, una delle frasi che più facilmente si possono sentire a San Patrignano, una delle eccellenze che abbiamo in Italia, e di cui ci siamo occupati più volte, lo ricordiamo, circa il 70% dei ragazzi di San Patrignano si reinseriscono nella società. Ecco, per chi vuole basta mandare un SMS dal cellulare al numero solidale 45508 per fare la propria offerta. Mario, bolla! Vai. No, questi sono i Pirati dei Caraibi, no? Eroi dei bambini, Jack Sparrow, chiunque ha figli sa di cosa sto parlando. E io segnalo solo che l'immaginario, lo spazio dei bambini è sempre più high-tech. YouTube sta per lanciare un'applicazione dedicata ai bambini che si chiama YouTube Kids. E chi appunto ha figli sa di cosa parlo, cioè parlo di una generazione touch sostanzialmente, che ritiene YouTube e tutte quelle manifestazioni, diciamo, che sono online, come il luogo naturale dell'entertainment. Devo dire che la televisione che si lambicca sui palinsesti senza pensare che ci sia appunto il consumo on demand ormai anche per i bambini, beh, insomma, è molto indietro, secondo me. Non so cosa ne pensi, Giovanni, ma è un mercato molto grande, molto molto grande e importante, no Pietrangelo? Non te li hanno, non li hai. Giuseppe ci chiede, Pietrangelo, se in metropolitana non hai anche incontrato, oltre ai poeti, anche gli olandesi, no? Gli olandesi stamattina no, erano tutti in Gattabuia. Era già... Io li ho visti ieri, già dalla mattina erano belli, in giro. Erano cotti proprio. Salamino! Salamino in libreria, la sentite questa musica? È la colonna sonora della storia infinita ed è una storia che comincia in libreria, come infinite sono le storie delle librerie. Oggi al Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno c'è la foresta delle liberalizzazioni. Una in particolare è temuta ed è quella che mira all'abolizione della legge Levi sulla tutela delle librerie. Se passa l'idea molto piritolla tipica di questo governo dei super sconti, sarà la fine delle librerie indipendenti. Solo chi ha grande potere d'acquisto potrà fare incette e domineranno il mercato le catene interessate alle 50 sfumature e non certamente alla cultura. Ma c'è del marcio nel peritollame renziano. Esempio: se Amazon, il signor Amazon, fattura 1 milione di euro in Italia non paga le tasse. Se un libraio ne incassa 100 di euro, paga le tasse con tutti i danni che è il problema derivano. Delle over the top, appunto, da sempre. Ma questa è un'altra storia, è una storia che a Mix 24 abbiamo seguito sempre e continueremo. E continueremo a seguire. E come si suol dire, difendete le librerie a costo di volare col drago. Un bel volante, però mica male. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Come ogni venerdì è arrivato il momento della nostra posta del cuore. Se volete raccontarci i vostri problemi di cuore, mix24@radio24.it. Sara, chi ti scrive oggi? Ci scrive Teresa, tra l'altro una lunghissima lettera, e quindi ci dovrà perdonare per la sintesi che abbiamo fatto. Teresa scrive: all'inizio non te ne accorgi, ma poi tutto cambia. Io dico sì, lui dice no. Io amo leggere, lui non lo fa mai. Io parlo piano, lui urla. Io rispetto la coda e lui si infila ovunque. Io sono un bivio e lui continua dritto. Non ci riconosciamo. Tutto è cominciato quando, troppo delusa dal comportamento incivile dei nostri governanti, ho preso coscienza del paese in cui vivo e ho sentito il bisogno di parlarne. E lui come rispondeva? Chi non si contenta di quello che ha non si contenterebbe nemmeno di ciò che vorrebbe. Credevo di avere accanto un uomo coraggioso e invece uno capace di affrontare tutto e non me, di ascoltare tutti e non me, e pensare che siamo stati la coppia più bella del circondario. Ma come finisce un amore che ha sfidato il quotidiano per 40 anni? Quando lo abbiamo perso? E sera ora. Tra poco chiuderemo il negozio, rientreremo nella casa che ci ha visto sorridenti, con la faccia smunta e gli occhi bassi. Andremo in cucina a tirar fuori qualcosa da mangiare e poi sul divano a vedere Sanremo. Dio, come siamo banali. Però quanto ci piaceva questa banalità. Pietrangelo, l'amore è anche banalità? Mi sovviene un aforisma, ma che dico un aforisma? Un motto, una sentenza scolpita nel marmo, una sentenza di Leo Longanesi. L'amore è l'attesa di una gioia che quando arriva annoia. E potrebbe essere il viatico, non di una capitolazione di quel marchingegno meraviglioso che è lo stare in due insieme, ma deve essere la giusta corona di qualcosa che poi nell'impeto diventa tranquillità, di qualcosa che nella tempesta poi diventa lago placido, dove bisogna considerare, signora, che il tempo passa e il tempo reclama in noi delle calme inarrivabili che soltanto l'inarrivabile calma può restituire. E pertanto sì, l'amore è anche banalità, ma nel banale c'è quella contentezza di poter a un certo punto svegliarsi nel soprassalto e riconoscere la meraviglia di poter respirare nel frattempo che magari lui russa, di poter parlare sottovoce nel frattempo che lui urla, nel frattempo che accendendo il televisore si guarda Sanremo ma ci si annoia maledettamente mentre cantano. Invece, cara Teresa, leggendo la tua lettera mi è venuta in mente questa canzone. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di stare, stare in disparte a sognare, non stare a pensare più a te. Ecco Teresa, è vero per carità che non chiedi la luna, però hai scritto che tornate a casa smunti e con gli occhi bassi. Allora prova ad alzare lo sguardo e ritrovare il suo, insieme magari anche al tuo sorriso. E poi Teresa, banalità fa rima con umanità, ci hai fatto caso? Accorge dov'è il sentimento. Beh, lezioni Mario, qui sono lezioni proprio di vita, distillati, pure perle. Ma ognuno che si fa gli affari suoi, pure perle. Il 22 febbraio dell'80 a Roma viene ucciso Valerio Verbano, un ragazzo di 18 anni, un militante di sinistra. La madre di Valerio, Carla Verbano, racconta gli attimi prima dell'omicidio del figlio. Quella mattina ho sentito suonare alla porta. Ho domandato chi è, mi hanno detto siamo amici di Valerio. Ho detto ma Valerio non c'è, è a scuola, prima delle 2:15 non viene. Dice signora ma siamo amici, siamo stanchi, ci faccia entrare, tanto ci conosce, siamo venuti altre volte. Allora io ho aperto la porta. Come ho aperto la porta ho visto tre ombre. Uno l'ho visto un attimo, si è calato subito il passamontagna e mi ha rigirato e mi ha messo la mano sulla bocca. Hanno immobilizzato mio marito nel mentre hanno trascinato anche me, ci hanno legato e imbavagliato. Ecco, un omicidio brutale di cui ancora oggi non si sanno esecutori né mandanti, uno dei grandi misteri degli anni di piombo, un omicidio avvenuto quando a Roma si moriva di politica. Marina Milone racconta la storia realizzata da Valerio Cataldi. Mario, ancora una bolla. E se una femmina si chiamerà Futura, il suo nome detto questa. Allora, una bellissima canzone di Lucio Dalla per un tema futuro, ma non troppo. È la Apple Car, ne abbiamo parlato varie volte ormai. C'è una data 2020, 5 anni, 5 anni, e Apple sarà in grado di produrre, non di fare un prototipo, viaggeremo Apple, ma di produrre un'auto. Tesla e General Motors stanno per rispondere con nuovi modelli. La verità è che stiamo entrando in una nuova era elettrica, è molto interessante quello che sta succedendo. Molto. Ovviamente, vabbè, lasciamo stare, in Italia non se ne parla, vabbè. Ma quello che sta accadendo è che la portabilità è la sempre più grande efficienza delle batterie creerà una nuova serie di prodotti. Certamente. E quindi tutta una serie di grandi opportunità per aziende che vogliono nascere su altre basi industriali, con un altro spirito. Pensa, Apple ha 200 ricercatori che lavorano solo su questo progetto e spende ogni anno in ricerca e sviluppo 6 miliardi di dollari. Si capisce perché. Le cifre per ingaggiare una battaglia sul futuro sono queste, sono non queste. Quelle che ci raccontano in giro i nostri, diciamo, governanti di turno oggi, domani e dopodomani. Ecco, e prima della pubblicità, Fortuna di Mario Venturi. Nato danzando sul naso del mondo, Fortuna inventa la bellezza nell'abbraccio delle sue tante famiglie, madri e sorelle che si curano di lui.